558. Arnioni alla parigina. Prendete un rognone, ossia una pietra di vitella, digrassatela, apritela, copritela d'acqua bollente. Quando l'acqua sarà ghiacciata, asciugatela bene con un canovaccio ed infilatela per lungo e per traverso con degli stecchi puliti, onde stia aperta. A Parigi si usano spilloni di argento. Conditela con grammi 30 di burro liquefatto, sale e pepe e lasciatela così preparata per un'ora o due. Dato che la pietra sia del peso di 600 o 700 grammi, prendete altri 30 grammi di burro ed un'acciuga grossa o due piccole. Nettatele, tritatele e schiacciatele con la lama di un coltello insieme col burro e formatene una pallottola. Cuocete la pietra in gratella, ma non troppo, onde resti tenera. Ponetela in un vassoio, spalmatela così bollente con la pallottola di burro ed acciuga e mandatela in tavola.